Va bene, allora oggi parliamo di Anna Damole e se avremo tempo anche di Foscolo di Tiziana, cioè di due operazioni, chiamiamole di attivismo artistico, più o meno nate e concepite diversi anni fa all'interno di queste mura, cioè all'interno di queste mura è improprio perché in realtà è una cosa molto più vasta. Allora, la situazione, Loiticela. Allora, Anna Damole, siamo nell'autunno del 2008, quindi ormai siamo 4 anni fa, si è appena insediato, no, forse il nuovo governo Berlusconi si è insediato da un po', ma insomma in quell'autunno lì il nuovo ministro della pubblica istruzione, signora Maria Stella Gelmini, si guadagna un po' di popolarità sui media, sui giornali, sulle televisioni, ovviamente cominciando il suo sistematico lavoro, commissionato evidentemente dal governo e da diverse forze economiche, un lavoro che si può definire, direi, obiettivamente ed equanimamente, senza nessun pregiudizio, di massacro della scuola pubblica in Italia, tagliando i fondi, tagliando le cose. C'è rapidissimamente, c'è un grande movimento di studenti, praticamente di tutte le università d'Italia, anche nelle scuole medie, eccetera, eccetera, e adesso non saprei dire se il nome nasce da un giornale o matura dentro degli ambienti studenteschi, eccetera, ma insomma comunque già in ottobre a questo movimento viene, riceve il nome di Onda Anomala, è un'onda anomala. Ci sono stati altri movimenti negli anni precedenti, eccetera, eccetera, ma insomma dall'epoca dell'ultima ondata di lotta studentesca, più o meno alla metà, alla fine degli anni 80, degli anni 90, chiamato la Pantera, ognuno di questi momenti aveva un nome, qualcosa, quello prima si chiamava, era stato chiamato così, insomma, allora, onda anomala, questa è un'onda anomala. Perché si chiama onda anomala? Perché obiettivamente tutti sono un po' stupiti dal fatto che le mobilitazioni sono grandi, scoppiano cortei a Roma soprattutto, ma Roma perché ovviamente la capitale c'è la sede del Ministero, viene cerchiato il Ministero, vengono fatte diverse grandi manifestazioni, eccetera. Naturalmente anche a Milano c'è un movimento, si fanno dei cortei spontanei per le strade, con poca organizzazione, ma rapidissimamente nascono dei collettivi. Allora, all'Accademia di Brera le cose stanno così, c'è un collettivo in quell'anno lì, si è appena formato, un collettivo formato largamente da studenti del triennio, con qualcuno meno del biennio, un po' più grandi quindi, che si chiama Out Art, autonomia artistica, o ci possono essere vari modi di declinare, comunque diciamo che la cosa, i due termini che vengono chiamati sono autonomia artistica. Alcuni di questi studenti però quell'anno sono appena partiti per l'Erasmus, quindi non si trovano qui a Milano, non siamo in Italia. Questi studenti e studentesse in realtà vorrebbero fare qualcosa anche dalla città di Rotterdam, dove alcuni di loro, come dire, si trovano, e quindi cominciamo a parlarci per telefono, cominciano a parlarsi per telefono o via Skype, probabilmente perché sono più. Insomma, dal collettivo studentesco parte questa idea, dal collettivo, sia il pezzo che sta a Rotterdam che il pezzo che è rimasto a Milano, e insomma si decide di fare questo collettivo qua, stava già studiando, riflettendo per conto suo su tutte le questioni di cui abbiamo parlato in queste lezioni del venerdì, quindi sui nomi collettivi, sui nomi multipli, sui fake, eccetera, eccetera. E, E quindi insomma l'idea è di decidere, bisogna fare qualche cosa, però caratterizziamoci, noi siamo un collettivo dell'Accademia, quindi facciamo un'attività, diciamo, attività, virgolette, artistiche o comunque espressive. Per noi è più importante, sono altrettanto importanti dei contenuti, anche le forme, insomma, dobbiamo fare delle cose. E insomma, nasce quindi rapidamente l'idea di costruire un personaggio che sia vagamente simile, che abbia una funzione simile a quella di San Precario che abbiamo già visto, cioè una figura. Dice, però facciamola con qualche, diciamo, differenza, perché contemporaneamente viene l'idea, certo, direbbe. Nelle, diciamo, le manifestazioni, le primissime manifestazioni fisiche hanno, in modo un po' anche forse velleitario, volendo, vabbè, sono comunque hanno detto, dovrebbe occupare il Ministero della Pubblica Istruzione, eccetera, eccetera, va bene, si dicono questi, diciamo, studenti, occupiamolo non in forma fisica, occupiamolo almeno su internet, cioè occupiamo il sito. Si può fare? Sì, si può fare, ci sono personaggi, ci sono persone all'interno del collettivo più o meno capaci di manovrare, insomma, strumenti informatici anche sofisticati, comunque sia questo gruppo ha, comunque volendo, dei contatti anche con degli hacker molto più agguerriti, diciamo, di loro, però obiettivamente l'obiettivo, la manovra è molto ambiziosa, probabilmente non regge. Allora, va bene, replichiamo su un'altra cosa. Facciamo un falso, facciamo un sito falso. Facciamo un sito falso e questo personaggio nuovo, facciamo un sito falso, però che sia, in cui molta gente ci possa cascare, insomma, no? Che sia. E facciamo occupare questo sito falso, cioè quindi facciamo finta che sia il sito vero. Lo mettiamo già online con qualche escamotage, poi al momento giusto questo personaggio che vogliamo costruire, che questo personaggio fittizio che vogliamo costruire, facciamo che occupiamo noi, insomma, un gruppo occupa questa cosa e insediamo un nuovo ministro della pubblica istruzione, questa è l'idea. Quindi il personaggio deve essere femminile, il personaggio deve avere. E naturalmente si lavora molto sulla questione dell'anagramma, insomma, no? Si cerca un anagramma diciamo, di questa espressione con cui si è chiamata onda anomala ed esce fuori il nome Anna Adamo, un bel anagramma, perfetto, e quindi io sono Anna Adamo. Il pezzo di collettivo che sta a Rotterdam diciamo, si attiva, si trovano un paio, forse solo uno, docenti di Brera che simpatizzano con questa operazione, quindi danno una mano per fare i testi, eccetera, ma soprattutto si trovano anche dei gruppi che sono già, che sono fuori dal mondo dell'Accademia, ma che queste persone che gli studenti conoscono, e quindi praticamente si costituisce una roba che dura in 10 giorni, 15 giorni, si fa tutto, insomma, attraverso riunioni Skype, eccetera, con il grosso del collettivo che sta a Milano, quelli che stanno a Rotterdam, i pochi professori di Brera che sono disponibili all'iniziativa e i due partner principali sono un gruppo toscano che ha già fatto diverse operazioni interessanti di net art attivista, che si chiamano Les Liens Invisibles, Les Liens Invisibles in francese, i legami invisibili, ma sono due toscanacci, quando si sentono parlare hanno una cena toscana, che abitano tra Lucca, Viareggio e posti così, insomma. Due, che hanno già fatto una serie di operazioni, adesso cosa hanno fatto a quell'epoca, insomma, forse il Seppuku non l'avevano ancora fatto, sì, lo stavano forse no, il seppuku l'ho fatto l'anno dopo con Facebook, avevano già fatto delle cose, insomma, erano su internet. Ma sì, avevano fatto la cosa più grossa che avevano fatto, avevano, diciamo, clonato, fatto un sito falso di un parlamentare, Gianluca Volonté dell'UDC, che si era espresso, non so, contro i gay, contro chissà che altre cose. Questi gli avevano fatto un sito falso in cui, insomma, copiavano in giro, e avevano già una denuncia di questo parlamentare, c'era un processo in corso, ma era gente con una certa esperienza. E poi un gruppo di grafici, che invece stanno italiani, ma che anch'essi stanno a Rotterdam, che sono gli Yellowstone. Quindi queste sono diciamo, le componenti fondamentali del il collettivo studentesco di Autarte. Alcuni, pochi, forse solo uno, professore di Brera, fiancheggiatore dell'operazione, l'Eliana Invisibile e il Parco di Yellowstone. Tutti insieme questi qua si mettono, discutono, fanno eccetera, quindi producono intanto il nome, Anadamolo, che è l'anagramma di Onda Anomala. Poi producono il Parco di Yellowstone prevalentemente, ma si discute tutti insieme, eccetera, questa vaccina. E intanto di nuovo tutti insieme, ovviamente quelli che hanno più esperienza di altri, si costruisce il sito falso. Il sito falso è www.ministeroistruzione.net, che risulta, a parte il .net che era più facile da avere che .it, per cui c'erano lunghe cose, ma la cosa buffa è che Ministero Istruzione risultava libero, non c'era alcuna. Perché in realtà il sito ufficiale, il sito vero, usa la sigla del Ministero, che è MIUR, Ministero Istruzione, Università e Ricerca. Quindi si fa questo sito, Ministero Istruzione, il quale per alcuni giorni cosa fa? Semplicemente con un rapidissimo, adesso mi scappa il termine tecnico, insomma, viene, insomma, collegato con il Ministero della Pubblica Istruzione, con quello vero mio, insomma, no? Cioè, tu schiacci ministeristruzione.net e vai su mio, senza quasi che l'utente se ne accorga, perché il collegamento, certo, cambia il nome mio, però, insomma, è fatto molto bene, quindi non ti accorgi quasi neanche. Non si chiama upload, come diavolo si chiama quando fai un... vabbè, insomma, c'è un termine tecnico che non mi viene in mente adesso, dell'informatica. Dopodiché, se non vado errato, il 14 novembre del... adesso politica un po' di tutti, intanto vediamo qua. Intanto tiro giù un po' di roba, così poi... No, questo l'abbiamo già tirato fuori, quindi perché... Vediamo il flyer, cos'è? Perché non mi dai in anteprima? 1-4K, figurati. Vabbè, questa è sempre l'unità. Qui posso firmare con il mio nome, perché è un articolo che parla di Anna Adamo. Ah, ok, queste guardiamole, che sono interessanti. So, un po' di materiale ce l'ho, non è che non... Qui me lo guardo a casa. No? Beh, ti puoi guardare il sito a casa. Mm. Però se vuoi ti mando le cose, comunque qui c'è... Cioè, se hai una chiavetta ti posso pure dare tutto... E allora ti posso passare tutto il materiale poi. Comunque questi adesso li apriamo, così li guardiamo dopo. Aspetta che li apro tutti, così li ho tutti aperti. E... ma volevo trovare di vedere se avevo le robe della stazione centrale. Eccola qua. Ok, va bene, la chiudiamo tutto. Allora, torniamo alla... Allora, qui c'è un... sono fortunatamente venuto in possesso di questo documento riservato, che è una delle discussioni interne del gruppo per fare Diana Adamo. Quindi dice, l'idea di creare un personaggio fittizio per impersonificare il movimento non è nuova. È stata già usata dal movimento precario degli anni scorsi con due personaggi dalle caratteristiche diverse, a San Precario e Serpicanale. Serpicanale non aveva parlato, ma parleremo una volta prossima. Anna Damolo è l'anagramma di Onda Anomala, è una donna, in parte per la forte e determinante componente femminile del movimento, in parte per contrapporsi alla ministra Gelmini, non ha caratteristiche né storie particolari, ma profili, storie, enunciazioni di volta in volta diverse, plurali e variabili, ricca e imprevedibile come il movimento, e quindi una figura vuota che ogni facoltà, ogni assemblea, ogni collettivo può usare come meglio crede, attribuendole iniziative, slogan, prese di posizione e documenti. Anna Damolo non resterà nelle mani di chi l'ha creata, ma si affiderà alla vita che le daranno tutte le istanze del movimento che verranno dopo. Anna Damolo avrà ovviamente un'immagine, una figura collettiva formata con i tratti di tanti visi. Questo è più o meno, non è tanto vero. Come è stato in Luther Blissett nel bolognese negli anni, è un segno grafico riconoscibile come Serpicanale. In ogni caso non sarà la caricatura della Gelmini, né si presenterà con caratteristiche iconiche forti e determinate. Questo movimento non ha bisogno di stimoli, né di simboli né di rappresentanti neppure creati da se stesso. Anna Damolo sarà come il linguaggio, uguale e diverso per tutti. Allora qua si vede che dentro c'è gente che studia il linguaggio, che studia queste questioni qua, c'è tra studenti anche, e non, cioè i professori qua c'entravano sì, un po' qualcosina, ma e poi ha un punto di vista molto radicale, cioè dice non vogliamo che Anna Damolo rappresenti né il simbolo di niente, né voglia fare rappresentazione, vogliamo è uno strumento che noi diamo in mano a tutti quelli che vogliono. Anna Damolo prende possesso virtuale del Ministero della Pubblica Istruzione in concomitanza con l'assedio simbolico del Consiglio Nazionale del 14 novembre a Roma. In effetti il 14 novembre 2008 era la scadenza che si erano dati, e loro erano partiti meno di un mese prima, questo gruppo di persone, e insomma aveva, quindi c'era tutto questo lavoro da fare, fare la grafica, fare niente, è stato un lavoro grosso, insomma. Fare il sito falso, fare la cosa così, e poi programmare anche delle azioni, come dire, sul territorio, insomma, partendo evidentemente da dove eravamo in grado di partire, cioè da dove erano in grado di partire, cioè da Milano e prevalentemente dall'Accademia, ma anche da altre, come dire, facoltà. Comunque il personaggio verrà lanciato insieme al nuovo sito www.ministeroistruzione.it o info, in realtà poi sarà net. Questo era ancora la fase, si pensava di fare IT, poi si è visto che videro che IT era troppo complicato. Come sviluppare il sito? Allora, e quindi effettivamente il 14 novembre del 2008 c'era in programma questo grande corteo che fisicamente, in effetti lo fece, faceva un grande anello intorno al Ministero della Pubblica Istruzione. Se tutto il movimento in quella fase fosse stato più sensibile a questi modi di fare, diciamo, di fare informazione, politica, immaginaria, eccetera, avrebbe probabilmente tentato di rifare la famosa cosa di cui ti ho parlato, cioè il famoso assedio al Pentagono del 1967 per far lievitare, per cominciare a far lievitare il ministro della protezione. Ma siccome il movimento in quanto tale era più serio, c'erano le componenti politiche più tradizionali, c'era l'autonomia, eccetera, e queste sono tutte componenti che hanno poca simpatia per questo modo di, no, per queste modalità di lotta, per cui non ci fu questa cosa, ma però ci fu l'assedio, quello c'era. Allora, nello stesso giorno in cui c'era l'assedio si preparò tutto per fare questa cosa. Che cos'era il tutto? Il tutto era che quel giorno il Ministero della Pubblica Istruzione, il sito del Ministero della Pubblica Istruzione, che sino al giorno prima era semplicemente un semplice ponte di passaggio tra un dominio che evidentemente era stato comprato, acquistato, nuovo, eccetera, e il sito ufficiale del MIUR, in quel giorno invece quel sito acquisiva una sua diciamo fisionomia autonoma e la acquisiva così. Al primo click dell'utente appariva esattamente la prima pagina, cioè la front page del sito ufficiale del Ministero, ma questa volta sulla barra di indirizzi non c'era MIUR, rimaneva ministeroistruzione.net, che vuol dire che era una pagina che era stata clonata, copiata e messa sul sito. Quindi era uguale, sembrava, c'erano tutte con le robe di lato, con tutte le, era la stessa architettura della pagina, uguale, identica. Solo che a un certo punto si apriva uno spazio, uno spazio in mezzo alla pagina e in questo spazio compariva un video. Questo video era il video di presentazione di Anna Damolo. Consisteva, adesso questo se quando avremo il collegamento con il sito, lo vedremo, perché non credo in video di averlo io. Qui sono file. Qui sono precari, qui non avevano file, qui file, c'è un cazzo. Comunicato occupazione, qua ci sono le immagini, basta. Template, dare special kit, portare fast. Ho la sensazione che se riapriamo delle cose così riusciranno. Non lo so, quindi te lo racconto io come era fatto il sito, come era fatto il video. Allora, il video consisteva in una serie di immagini delle prime manifestazioni, quindi roba di qualche giorno prima, però molto in bassa definizione, senza tanta cosa, eccetera, alternate con delle immagini della riva del mare, con delle onde, quindi, e con la colonna sonora, se non vado errato, questo non me lo ricordo bene, poi forse possiamo vederlo, la colonna sonora era, sicuramente si sentiva il rumore delle onde del mare quando c'era la cosa, e poi si sentiva anche un po' di audio delle manifestazioni, così tipo, ma molto di lontano. Su questo sfondo, e il video andava avanti così, a un certo punto cominciava una voce femminile che diceva: sono Anna Damolo, e adesso ti guardi, adesso cerchiamo il testo che leggeva questa, il quale però non veniva letto tutto, il testo era stato scritto, era stato registrato tutto, però poi in fase ovviamente di montaggio del video ne venivano lette solo alcune frasi, e però con un effetto di eco e di sovrapposizione delle voci, cioè la stessa voce, come un'onda che arriva, poi si finisce, poi torna l'altra onda, eccetera, quindi dava questa impressione, e si raccontava questa occupazione, si diceva: io sono Anna Damolo, sono il movimento dell'onda, sono il nuovo ministro della pubblica istruzione, abbiamo fatto eccetera eccetera eccetera. Vabbè, continuiamo a seguire il concept. Apriti su. Dopo un secondo verrà tirato su una pagina con un video a tutto schermo con le immagini delle proteste, sì, il sito non so se era tutto schermo, forse rimaneva lì, e un audio di voce femminile che si presenta con il nuovo ministro che ha occupato il ministero. Durata del video 30 secondi, in realtà poi durava un minuto e mezzo circa. Al termine del video l'utente verrà indirizzato sul nuovo sito con la figura del nuovo ministro che dirà: cosa in linea del movimento, avrà caratteristiche personali sempre diverse. Il sito dovrà permettere alle diverse persone del movimento di raccontare la propria storia e di fare delle proposte che poi verranno prese le caratteristiche del personaggio. contattare diversi movimenti collettivi, e questo proprio si vede che è una roba, è un piano di lavoro, insomma, quindi è una roba, fare questo, fare l'altro, eccetera. Sta ammirato tutte le testate giornalistiche, il giorno 14 novembre, in cui si dichiara che Anna Adamolo, ci sono pure gli errori di stampa, ha occupato il ministero, striscione in piatta alla manifestazione del 14 che parlano di Anna Adamolo. Lelien, fake ministro, Anna Adamolo, test di sito e video, aumentare il page ranking, termine ultimo per il sito, 10 novembre, più o meno, credo che poi abbiano fatto un po' più, ci abbiano messo un po' più di tempo. Allora qui cazzo, siccome non mi dice le cose, ok. Allora, adesso questo volantino sinceramente non mi ricordo, però probabilmente è uno dei primi che sia stato fatto. Ma leggiamo il testo così, questo è una delle prime cose che, con cui diciamo, perché è stata fu un'operazione che si sviluppò su vari piani, in vari ambienti, quindi c'era, diciamo, quello che abbiamo visto sinora grosso modo è l'aspetto rete, l'aspetto, la cosa principale, poi ci sono state anche altre cose, no? Ce n'è stata un'altra di cui bisogna parlare, che è l'operazione Facebook, perché è stata interessante. Facebook era appena nato in quegli anni, diceva, però si capiva già che avrebbe avuto un grande sviluppo. Qui c'è questo volantino che dice: l'onda anomala non si, io sono Anna Adamolo. L'onda anomala non si ferma e non produce solo rabbia, mobilitazione e fermezza nell'opporsi al disegno di sfascio e di degrado dell'istruzione pubblica in Italia. Le mobilitazioni contro il Teatro Gelmini stanno creando anche forme di espressione e di comunicazione originali e vive che dimostrano bene, che dimostrano quanto bene facciano le lotte all'intelligenza individuale e collettiva. Anna Adamolo, un nome in cui è facile riconoscere un'analogia con un danoma, ma è un nuovo personaggio che sta prendendo il suo posto nelle mobilitazioni fisiche e virtuali contro la politica del governo in materia di istruzione pubblica, scuola, università e ricerca. Questo progetto è il frutto della collaborazione dei collettivi studenteschi precari, lavoratori della comunicazione sparsi per Italia e all'estero, che si sono uniti per dare al movimento uno strumento in più per esprimere la ricchezza dei propri contenuti e delle proprie forme comunicative. Anna Adamolo è un nome collettivo attraverso cui chiunque, studenti singoli e organizzati, docenti precari di ruolo, genitori, lavoratori della scuola, cittadini, può raccontare la propria esperienza, la propria storia, fare proposte di lotta e di miglioramento della scuola e università, creare contatti e nuove esperienze o semplicemente esprimere il suo dissenso. Anna Adamolo nasce dalle pagine e dai siti della rete, ma lo troverete presto nelle piazze e nelle strade d'Italia durante la mobilitazione e il corteo delle lezioni autogestite e nelle iniziative di autoformazione in tutti i luoghi in cui studenti, insegnanti e famiglie lavorano concretamente per un diverso funzionamento dell'istruzione pubblica. Qui c'è il bollo sopra, non si capisce, al servizio della crescita della conoscenza e non dei baroni, delle clientele politiche, degli appetiti economici e delle mafie. Il ministro occupante Anna Adamolo. Beh, questa è comunicazione politica più tradizionale, diciamo, come, però messa dentro a questa cosa qua. Parliamo un attimo. Va bene, c'è qualche riscontro sulla stampa, evidentemente tramite persone, per esempio l'Unità pubblica questa breve cosa, insomma praticamente il primo giorno, vediamo l'11 novembre, quindi giorni prima che ci sia l'occupazione, però siccome il personaggio da chi è Anna Adamolo, e dice: oggi pomeriggio in Piazza Duomo a Milano entra in scena un nuovo personaggio, Anna Adamolo, nell'immagine qui sopra, impegnato nella lotta alla legge 133. Qui vediamo dopo. Ce n'era un altro di articolo di Unità, eccolo qua. 12 novembre, quindi volte dice, addirittura un articolo firmato Caronia, perché sì, avevo saputo di questa cosa, quindi questo articolino dice: anche sulla rete tempo di sorprese legate al movimento contro la riforma del Minus. Su Facebook va avanti una guerra delle cifre tra sostenitori e oppositori del ministro. Ah, qui c'è, allora è meglio parlare di Facebook, questa è la storia di Facebook. Allora, insieme con questa cosa viene pensata una operazione Facebook. Viene rapidissimamente aperto, anche questo nei giorni prima, perché il giorno clou deve essere il 14 novembre, quindi intorno al 10, forse anche già intorno all'8, non ricordo, qualcuno, non si sa chi, apre su Facebook un account a nome Maria Stella Gelmini. la quale in quel momento la Maria Gelmini vera non c'è su Facebook, quindi l'ha fatto qualcun altro, però con la foto, con una foto, una delle tante foto che sono in giro del ministro, eccetera, un breve testo che dice: sono qua per spiegare quello che faccio al ministro della istruzione, parlate, mi diventiamo amici, bla bla, eccetera, eccetera. Con pochissimo spam, con pochissime robe, questo accade, dunque questo articolo è del 12, quindi la cosa secondo me era partita il 10, ci sono già dei gruppi di sostegno, no? Su Facebook, come dice questo articolo. C'è un gruppo, il gruppo più numeroso, che si chiama Gelmini, un ministro con le palle, che ha raggiunto 20.000 aderenti in poco tempo. Ci sono i gruppi di, diciamo, sostegno, 30.000, ci sono già un sacco di gruppi invece contro su Facebook, che sono molti di più, sono già più di 70.000. Ma ci sono fenomeni anche più ambigui. Sempre su Facebook siamo già nell'imminenza dell'operazione, quindi io potevo già cominciare a svelare le cose. Dunque, sempre su Facebook è stata aperta da poco più di una settimana, quindi vedi, siamo verso, sì, un po' prima del 10, 7-8 novembre. Un account a nome Maria Stella Gelmini è arrivato in pochi giorni a più di 1.500 amici. Effettivamente si arriva a tutti, e gente che ovviamente è favorevole alla, diciamo, Gelmini, vengono a Maria Gelmini e si iscrivono. Non sanno quelli che stanno scrivendo che lì non c'è veramente Maria Gelmini, e non sanno soprattutto che cosa succederà poi. Sbaglieremo, scrivo io in quel giorno lì, ma il fenomeno è interessante e ancora più recente, e questa volta è indubbiamente legato agli ambienti del movimento. Si tratta di una misteriosa signora il cui nome è Anna Damolo, ricorda troppo letteralmente l'onda anomala. Il suo volto arguto e un logo veramente accattivante compare su un blog. Sì, mi sono dimenticato di dirti. Oltre al sito ministero.net, viene contemporaneamente aperto un blog invece di rivendicato chiaramente da Anna Damolo, che è www.annaadamolo.noblogs.org. Noblogs è il sito di blog delle aree di opposizione. E su diversi gruppi di Facebook. C'è già un gruppo anche di Facebook, quindi c'è tutto insieme, si fa tutto quanto. Il gruppo è su Facebook, adesso non credo ci sia più. Anna Damolo, l'alternativa alla legge 143, poi col nome. Anna Damolo promette di essere la pluralità del movimento contro la riforma Gelmini, un immaginario non domato, non normalizzato, ma questo vediamo se trovo il testo e te lo faccio leggere. Il grido di un no e la fermezza di tanti sì, chiudo le virgolette. Una specie di voce collettiva del movimento, forse anche un ministro alternativo. E non si limita a internet, e infatti adesso vediamo. È comparsa su uno striscione alla manifestazione di Milano e ha diffuso un appello per facilitare i viaggi degli studenti alla volta di Roma per la manifestazione del 14. Sentiremo ancora parlare di lei. Effettivamente questa è stata la prima apparizione pubblica di Anna Damolo. Questo non c'è la data, accidentaccio, ma questo è finalmente la rivelazione, con una pessima... Dai, questa è la... questi sono i lavori esattamente per... allora, questo invece fa parte poi del kit di cui ti parlerò dopo, perché è stampabile. Eccolo qua. Allora, questa è la manifestazione di Milano. È il 13 novembre, i collettivi studenteschi, qua puoi riconoscere qualcuno di Autart, qualcun altro, puoi riconoscere anche professori democratici che fiancheggiano questa cosa, e praticamente di fatto è, insomma, sono i ragazzi del cantiere più quelli di Autart, in quel periodo sono in buoni rapporti, perché Autart dal punto di vista organizzativo si appoggia sul cantiere, anche se poi ci sarà poi la discussione interna, la spaccatura diversi anni dopo, però nel 2008 sono ancora tutti quanti, e poi ci sono le lotte per fare le cose, eccetera. Praticamente questi, cioè, saranno 200-300 persone, sono quelli che vogliono partire per Roma, e adesso non so se lo striscione si può vedere, questo è una roba di dopo, questo l'abbiamo già letto, Questa è la polizia, questa è la cosa, questo è il logo del ministero. Allora, questo non mi ricordo quando è successo, però praticamente ci sono, si fanno rapidamente, si fanno degli stencil con la faccina di Diana D'Amolo, e questi stencil vengono diffusi una notte per tutta Milano, insomma, in un sacco di posti, con le scritte Anna D'Amolo, la faccina di Anna, la faccina di Anna D'Amolo dappertutto, insomma, si mettono in un sacco di posti. Ecco, queste sono le trattative, qua si vedono altri esponenti del movimento di quegli anni lì, perché lui è venuto a arrivare, diciamo, a questura, e, ma che cosa è successo? È stato srotolato uno striscione grosso dalla Cassazione Centrale che inneggia ad Anna D'Amolo, dice andiamo a Roma, andiamo a Roma. Ovviamente questi vogliono vedere gratis, arrivano questa è la piccola assemblea che si fa, ancora non ci sono stati tutti i lavori di ristrutturazione, c'è una parte che sta cominciando ma ancora non è come adesso, è come era. Comunque questa parte qua grosso modo è rimasta uguale. La cosa fondamentale è che a un certo punto fra gli studenti si sparge la voce, dice, guarda, dice adesso c'è Anna D'Amolo che adesso arriva Anna D'Amolo, arriva il nuovo ministro della pubblica istruzione, c'è Anna D'Amolo e ci farà partire lei. Ovviamente anche in questa cosa gli studenti di Autart o del cantiere sono una piccola minoranza, quindi quelli che sanno le cose, ci sono molti studenti che non sanno, molti studenti sono convinti che ci sia davvero questa Anna D'Amolo. Io che ormai mi hai visto, ero lì quel giorno lì, vengo, mi ricordo personalmente fermata da sé, dice, ma chi è? Allora arriva Anna D'Amolo davvero? Cioè, c'era già, ecco, questo è l'attenzione del Trenitalia S.P.A., il governo Berlusconi, vabbè, questa è la rivendicazione, vogliamo andare a Roma per il diritto a manifestare, insomma. Allora, naturalmente poi viene... ok, questo credo sia il testo. Questo è il testo, stiamo andando un po' a pezzi, ma insomma, perché trovo i materiali di volta in volta. Questo è il testo che, da cui vengono prese alcune delle parole che vanno nel video che abbiamo visto su ministeroistruzione.net, che poi verrà stampato nell'ultima pagina del libro che... Adesso se lo cerchiamo, vediamo se lo troviamo. Il testo dice così: Anna D'Amolo è la pluralità del movimento contro la riforma Gelmini, è il rifiuto a giocare con il futuro come se fosse una partita di Monopoli, è il grido di un no e la fermezza di tanti sì. Anna D'Amolo è un immaginario non domato e non normalizzato, è la volontà di tenere aperto il molteplice e il possibile contro l'arroganza di un pensiero contabile, è il rifiuto di sanare le difficoltà dell'oggi con le miserie di domani. Anna D'Amolo è, noi la crisi non la paghiamo, Anna D'Amolo sono le studentesse e gli studenti, le precarie e i precari, le maestre e i maestri, le insegnanti e gli insegnanti, le bambine e i bambini, le mamme e i papà che in questo mese e mezzo hanno portato nel piatto d'Italia una protesta mai vista contro i truffatori del presente e del futuro. Anna D'Amolo ha una bella riserva di pazienza, ma non inesauribile. Anna D'Amolo vuole prendersi il posto che le spetta in questa società, cominciando magari dal Ministero della cosiddetta pubblica istruzione. Questo progetto è il frutto della collaborazione di collettivi studenteschi precari, lavoratori della comunicazione, sparsi per l'Italia e per l'estero, che si sono uniti per dare movimento. Qui seguo le cose che abbiamo già letto, prima, il pezzo nuovo era praticamente quel testo. Praticamente questo credo che adesso mi dia tutte le cose. Questo è dell'anno dopo, quindi ne parliamo l'anno dopo, basta, non c'è, per il momento non c'è più nulla. Torniamo a Facebook. Allora, che cosa succede il 14 novembre sul l'account? È un account individuale, quindi non è un gruppo, non è una cosa, gli altri sono gruppi, questo è un account individuale dove questa risponde, sono ovviamente tutti i post, le robe, eccetera, tu puoi, se insomma, diventi amico puoi postare. Allora, lì dice 1.500, credo che poi nei giorni successivi siano arrivati a 2.500, forse anche 3.000 persone, così d'un botto, senza fare nessuna propaganda o nessuna cosa. E all'improvviso, il 14 noi in concomitanza con l'occupazione, la pseudo-occupazione, la falsa occupazione la falsa occupazione del falso sito, sono falsi a come dire, a catena, insomma, no? Comunque anche il ministero, anche il diciamo l'account che era stato aperto a nome Maria Stella Germini con la foto di Maria Stella Germini cambia nome dell'account e cambia foto. Ovviamente il nome diventa Anna Adamolo, la quale quindi eredita tutti gli amici della Maria Stella della Germini, e accidente, adesso qui trovare la foto sarà, e c'è la foto di una persona vera, di una signora. Adesso vediamo se ho una roba, operazione Facebook, perché allora lì forse c'è. Strisce pedonali, Roma occupato, top girl, c'era, l'avevo visto Facebook, perché no? Non era la radio ufficiale, Empoli, andavano a fare, cosa per un'interazione, ma secondo me sta l'immagine. Adesso scusa, ma dobbiamo cercarle così. No. Eccola qua, però l'abbiamo trovata subito, ok. Ok. O questa o un altro nome è la foto che appare sulla cosa di Facebook. Adesso non mi ricordo sinceramente quale sia stata messa, ma ci sono un sacco di scatti. Questa è una signora vera, una signora reale, una signora olandese che faceva, credo fa ancora, è un impiegato amministrativo del Piazza Arte Institute di Rotterdam, dove una parte del collettivo Autart stava facendo il suo ramo in quel periodo. È stato avvertito, ovviamente lei saprà benissimo una cosa, si è prestata a dare il suo viso per questa roba, e questa foto è comunque girata un po', questo è un piccolo particolare, ma insomma, sto cercando di darti l'idea di tutta la complessità, insomma, è stata un'operazione complessissima, insomma, che ha, e ancora non abbiamo neanche esaurito tutto, ma vediamo qui quante sono 10.000. Vabbè, poi è sempre quella, ok. Quando ritorna la faccina di Anna Adamolo capiamo che è finito il lupo. Ah no, ce n'è ancora, tu guarda quanta roba, cioè, ce n'è un casino. E sì, questo ha fatto il suo lavoro lì, fanno le cose, eccetera. Naturalmente che cosa, diciamo, succede? La gran parte di questi, ma evidentemente l'operazione è stata concepita apposta per questo, per radunare dei sistematori, dei sostenitori di Anna Adamolo e per sbeffeggiarli con questa cosa. È chiaro che la gran parte di questi qua si arrabbiano, certamente c'è qualcuno che si è infiltrato, sono dei simpatizzanti eccetera, che sono infiltrati lì, però la gran parte no, sono dei gelminiani davvero, sono dei berlusconiani reali, quindi insulti a Stan Adamolo, insulti al movimento, insulti alla cosa. Ad Adamolo di fatto non risponde, o ti risponde un volta o due con una cosa standard, eccetera, ma no. E poi chiaramente la cosa finisce, perché dopo un po', però è andata avanti per varie settimane, insomma, no? C'è questa specie di sfogatoio di questi... Di tutto questo popolo, di tutta questa roba di destra, allora queste sono tutte le immagini, certo, ok, adesso ormai abbiamo capito, adesso vedo cosa c'è in attachment, ok, è che non so, avrei dovuto prepararmi un po' prima, ma questo non so se me lo apre, se no, ok, questo non so come posso aprirlo. Secondo me dovrebbe essere aperto. Questi sono file personali, perché vediamo se file funziona. Te l'ho detto come devi aprirlo, dai. Non mi fare. No, non aprirlo. Vediamo se c'è. c'è neanche mossa la sua immagine. Niente, niente, non possiamo vederla. Peccato, perché questi... E questi sono dei bozzetti con il logo, ah, con la firma, tutta roba fatta da Yellowstone in... Vedi, si vedono qua, in anteprima, vedi? C'è la la firma di Anandamolo, sono varie prove di loghi con firma. E qui c'è un materiale, allora, qui sono gli attachment, quindi questi, qui non c'è nulla. Vediamo adesso, questo è un PDF, chissà cosa c'è. Ah, va bene, niente, ok, questi sono gli elenchi dei giornalisti a cui bisognava, perché è stato fatto un lavoro di insomma, e evidentemente, certo, poi qualche poco di copertura è stato comunque usato. Lo striscione l'abbiamo visto. Ovviamente, dopo un po' esce una rivendicazione, anche dell'operazione Facebook, oltre a quella fatta. Dopodiché è finito. Dopodiché abbiamo finito Facebook, perché non c'è più. Allora, ma qui dice rivendicazione, ma invece no, è la... Questa, sai che non mi ricordo dov'è che è andata? Ma da parte di chi? Da parte di Anandamolo. Allora, perché in realtà poi questa cosa è stata presentata addirittura in diversi convegni successivamente di studio come un caso, è stato chiamato, insomma, di questa cosa si sono occupati prevalentemente degli analisi, che è stata chiamata in questo modo, subvert friend ad. Sovverti. Non sono mai rivelati comunque, loro hanno sempre scritto. No, però c'era scritto poi dopo un po', non è che sia. Diciamo la segretezza era dovuta al fatto ovviamente di mettere sempre in primo piano il personaggio e non l'elenco, però proprio quando è stato fatto il libro, poi nell'elenco alla fine del libro c'erano i nomi di tutti quelli, alcuni non hanno messo il loro nome vero e hanno messo soltanto per esempio il nickname con cui sono noti in rete, una certa Lobo, un certo Gadda, gente così, insomma, quindi non è che solo, però era una cosa trasparente, non c'era poco per sapere chi è Gadda o anche per sapere chi è Lobo, insomma, però formalmente non desara, perché nessuno voleva, come dire, utilizzare la cosa. Certo, quando si scrivevano degli articoli eccetera, allora venivano, come dire, firmati, allora l'articolo più importante, che è a parte quelle robe che hai visto lì, diciamo il saggio più importante che si è uscito su Anandamolo è un saggio che è uscito su Digimag del 2001, dei numeri del 2009, quindi circa un anno dopo la cosa, firmato con tre nomi, Loretta Bodrelli, Antonio Peronia e Tatiana Balzichelli, che sono quelli che l'hanno scritto. Quindi l'abbiamo scritto in tre con cose. Naturalmente però non c'è nulla nell'articolo, nessuno diciamo, di questi tre per forza deve aver preso parte al progetto. In effetti una proprio non ha preso parte, gli altri due non si sa bene se hanno preso parte o no, insomma, certamente si può capire facilmente, insomma, non è che però, perché non c'è niente, diciamo, non essendo un'attività illegale, non, però insomma, diciamo, gli autori di Anandamolo hanno sempre preferito, come dire, tenere in secondo piano, anzi addirittura in cantina a volte, il proprio nome o la propria... diciamo, rivendicazione, senza nasconderla totalmente. L'Elien è una cosa. Allora, per esempio, questi hanno presentato questo progetto addirittura come una ricerca di sociologia qualitativa su Facebook, quindi figura una ricerca di sociologia qualitativa su Facebook. E adesso questa cosa mi pare che sia stata fatta anche questa per una manifestazione a metà tra diciamo una riunione di artisti, roba di studio, insomma, perché bisogna tenere, come dire, presente che molte di queste persone avevano, come dire, come molti di noi spesso, insomma, trafficavano in ambienti diversi, ambienti di movimento in cui ovviamente le preoccupazioni, gli interessi, eccetera, erano di un tipo. Ambienti artistici o ambienti culturali in cui erano di un altro tipo. Quindi si trattava di volta in volta, ogni volta che si parlava, che si faceva riferimento a questa operazione Anna Damolo o che si parlava di Anna Damolo, bisognava tenere presente il contesto in cui se ne parlava e quindi più o meno usare un linguaggio che fosse comprensibile o che fosse più aderente agli interessi dei vari contesti, cioè delle varie persone che... Quindi questa, per esempio, tutto questo testo è una presa in giro dello stile delle ricerche accademiche, no? Fatto punto 1, punto 2, sì. Velocità, frequenza di ad. In un primo periodo del suddetto account il bacino di amicizie che ho piuttosto ristretto dovevano essere sottovalutate le implicazioni sociali dello strumento ad friend. Ecco, insomma, tutta è roba di questo tipo, ma è chiaro, è ovvio che è una presa per il culo. Poi addirittura vedi dimostrazione per assurdo, quindi ce n'è di tutti i colori, insomma. Però testo lungo, Dio buono. Diciamo, volendo, cioè uno potrebbe pensare che questo testo sia stato steso dall'Eliana Visibile, perché sono quelli che hanno fatto la cosa, ma non è firmato, quindi non vogliamo neanche i testi di Anna Damolo sono mai stati firmati, quindi allora vediamo che cosa c'è rimasto. Allora, l'unità l'abbiamo vista, Anna Damolo concept l'abbiamo visto, ma allora vediamo, Anna Damolo for l'Inps, a questo punto Anna Damolo va anche all'Inps, adesso è andato a Berlino, in questi giorni è appena stato a Berlino Anna Damolo. Quindi va avanti? No, va avanti, è stato, ecco per esempio qui abbiamo Anna Damolo, questo è A Short History of the Project Anna Damolo, quindi un testo in inglese fatto per... una presentazione all'Inps, guarda qua, vedi, per i contatti sono Lobo e Gadda, cioè questi due qua, che ci dobbiamo fare? Ecco, questo spiega proprio, è un riassuntino, quindi dice tutto. Anna Damolo è nata nell'ottobre del 2008 da un network di studenti italiani, insegnanti, artisti e attivisti che lavoravano in diverse città italiane e a Rotterdam per costruire un'ulteriore occasione e uno strumento di lotta per il movimento italiano chiamato l'onda anomala, diretto contro la politica educativa del governo Berlusconi, del Ministero dell'Educazione e della Magazzella Gelmini, la signora Gelmini. Il progetto si sviluppò in differenti passi, sia su internet che nel mondo reale, tra gli scioperi e le dimostrazioni di studenti, genitori, insegnanti e precari nelle strade italiane. Anna Damolo è in effetti l'anagramma di onda anomala ed esso è una identità collettiva e finzionale che ogni oppositore alla politica del governo può assumere e usare come vuole. È un inglese un po' semplice, però insomma, chi l'ha scritto forse non è proprio di madrelingua inglese, però è uno che sa a casa scrive inglese. L'operazione Facebook. Nell'ottobre 2008 venne creato un account su Facebook con il nome Maria Stella Gelmini, Ministro generale dell'Educazione, con pochi documenti ufficiali e alcune foto del ministro. In pochi giorni questo account, ecco adesso non mi ricordavo, raggiunse e superò il numero di 2000 amici, in gran parte in favorevole alla politica del governo, mentre una minoranza mostrava la sua opposizione. Quando il 14 novembre 2008, vedi sotto, il nome e l'immagine dell'account vennero cambiate in Anna Damolo, molti sostenitori del governo protestarono, questo è buffo, diciamo, denunciando un dirottamento delle carte, perché questi qua dicono, erano tutti convinti che lei fosse la vera Maria Gelmini, avete preso. Quindi, diciamo, gli autori della beffa, di questa beffa in modo particolare, cosa hanno fatto? Ovviamente non era così, era ovvio che erano loro che avevano creato Maria Gelmini, ma la gran parte dei 2000 sostenitori non lo sapeva e quindi era convinta che fosse. E quindi erano convinti che loro avessero fatto un hijacking, un dirottamento del nome, che si fossero impadroniti illegalmente e minacciavano i cosi di denuncia, vi denunceremo, avete fatto una cosa illegale, non potete fare così. Ovviamente non c'era da fare nessuna denuncia perché ovviamente era falso sino dall'inizio il coso, no? Quindi vedi che ci sono diversi aspetti in questa operazione di come si può giocare il falso anche diciamo ripetendolo, facendo il falso continuato. In questo caso ecco, come dire, succede qualche cosa tipo una legge simile a quella della doppia negazione, cioè come una doppia negazione vuol dire affermazione, così un doppio falso diventa una cosa autentica, no? Rimanendo invece un falso, evidentemente. Diciamo, denunciando un dirottamento dell'account, ma solo pochi di essi rifiutarono l'amicizia con il nuovo personaggio. La cosa strana è che pochi se ne andarono, su 2000 poche decine, no? Però stavano lì, si incazzavano, denunciavano, eccetera, però continuavano a stare lì. Non erano, non erano. Allo stesso tempo molti oppositori su Facebook cambiarono il proprio nome e l'immagine del loro profilo in quella di Anna Damolo. Effettivamente non fu una grande somma, però diverse decine di persone, ovviamente in gran parte erano quelli che avevano, però anche alcuni altri amici loro, eccetera, gente che entrava in contatto, qualcuno cambiò il proprio nome. Comunque ancora adesso se cerchi su Facebook trovi 3 o 4 Anna Damolo, trovi un gruppo amici di Anna Damolo che ho visto che c'è ancora. E trovi vari, trovi dei, diciamo, piccoli reperti, piccole tracce di quell'operazione. Buongiorno. Piccole tracce di quell'operazione. Il falso sito del Ministero, in occasione dello sciopero nazionale degli studenti e degli insegnanti del 14 novembre 2008, quando una marcia massiccia di dimostranti bloccò le strade di Roma e si accalcò attorno all'edificio del Ministero dell'Educazione, un nuovo sito venne lanciato, www.ministeroistruzione.net, che a prima vista imitava accuratamente il sito ufficiale www.mio.it, ma cambiava il proprio contesto dopo pochi secondi, proclamando Anna Adamolo nuovo ministro dell'educazione. Anna Damola, sì, mi dimentico un sacco di particolari. Anna Adamolo si chiamò, si autonominò ministro Onda, wave minister, ministro Onda, per mimare il ministro Ombra dell'opposizione, no? Ministro Ombra, ministro Onda. Gli utenti venivano, allora questa cosa bisogna ancora che te la dico. Dunque, gli utenti vennero invitati a raccontare le proprie storie sotto il nome di Anna Adamolo. La stampa italiana coprì ampiamente l'evento, forse non molto ampiamente, ma insomma coprì l'evento, anche però, attenzione, misunderstanding, cioè insomma scambiando l'operazione come un defacing, come un attacco al sito ufficiale. Alcuni scrissero, effettivamente alcuni locali, che gli hacker avevano attaccato, che è una cosa falsa, non è stato attaccato nulla, il Ministero della Pubblica Istruzione per farlo diventare, in realtà il MIUR non è stato mai toccato, non c'è stata nessuna azione, era tutto un falso ovviamente, e quindi in questo ci cascarono altre. Quindi diciamo, denunciando, diciamo, comprendendo l'operazione, scambiando, mi scappa, c'è un verbo italiano che è meglio per equivocando l'operazione come un defacing del sito ufficiale, mentre era solo piuttosto una specie di cloning, di clonazione del sito, e il sito ufficiale non è mai stato attaccato né ha avuto conseguenze da questa cosa. Nelle settimane seguenti, una campagna di Google Bombing portò il sito di Anna Damolo alla terza posizione nelle ricerche per Ministero dell'Istruzione by user, cioè faceva Ministero dell'Istruzione in quel momento veniva. C'era un altro, c'era un, c'è stata un'altra operazione analoga alla nostra, ma con meno ampiezza, che si chiamava Ministero della Pubblica Istruzione, quindi era Ministero di Istruzione Culturale, una cosa del genere. Usciva questo qui, poi usciva il MIUR, ma subito dopo usciva Anadamo. Usciva Ministro, ah no, scusa, prima ancora del vero MIUR, il MIUR era sotto al terzo posto, perché nessuno sapeva che si chiama MIUR, questa è la vera ragione, perché c'è un nome del piccolo, la gente cerca il Ministero dell'Istruzione. La costruzione del personaggio e la presenza nelle marce, nelle dimostrazioni, negli scioperi. Allo stesso tempo fu lanciato un blog di Anna Adamolo, annaadamolo.noblog.org. Gli utenti potevano vedere e download, potevano scaricare un'immagine coordinata del ministro Onda, e sono quel disegno che potete vedere prima. Era un kit per cui ognuno poteva diventare Anna Adamolo. In effetti, è stato fatto qualche volta a Milano di costruirsi le maschere e poi mettersele sopra e fare Anadamo. Ma c'era la maschera, c'era il logo, tutte quelle cose che potete vedere del logo erano tutte cose da poter scaricare, fatte con una certa accuratezza. Se ne erano occupati evidentemente quelli del parco di Yellowstone, che includeva un profilo di Anna Adamolo, i suoi occhiali, diversi francobolli, diversi timbri pseudo ufficiali e altro materiale. Molti studenti e gruppi di precari a Milano, Ferrara, Messina, Trento e altre città, in effetti più che in queste quattro non ci fu nulla, ma insomma si mette sempre in altre città. Milano, Ferrara, Messina, Trento, cioè in qualche posto, non in tanti posti. Quindi questi gruppi portarono striscioni, volantini e bandiere con il viso di Anadamolo nelle dimostrazioni e negli scioperi, usando il nome di Anadamolo per molte iniziative come la Free Admittance in Museums, l'intervento in meeting ufficiali, autoriduzione di libri e altri beni culturali. Nelle manifestazioni dozzine di studenti, insegnanti e precari parlarono in pubblico affermando, proclamando di essere io sono Anna Adamolo. Il libro, e alla fine arriviamo al libro, nel gennaio del 2009 venne pubblicato un libro col titolo Io sono Anna Adamolo, voce e storie dall'onda. Il libro contiene 9 storie di studenti, insegnanti, precari, bambini, genitori, attivisti, scritto ed editato da più di 25 partecipanti al progetto Anna Adamolo. Ogni presentazione pubblica del libro viene usata per mettere insieme un po', per raccogliere e collegare altre testimonianze individuali di storie della gente nuova. Questa era l'idea del progetto che si realizzò fino a un certo punto, insomma, comunque, era quella che non fosse esattamente un po' come voleva essere l'idea originale di San Precario, quindi come che fosse una, diciamo, l'occasione per molta gente di prendere la parola, gente che non l'avrebbe presa, eccetera. Effettivamente, devo darti questo particolare, sul sito Ministero Istruzione, perché era lì che si poteva fare, c'era un blog che dice racconta la tua storia. Tu potevi parlare, venivi registrato e c'era un numero telefonico, adesso non mi ricordo bene, devo andare a vedere perché c'è ancora. Quindi gli organizzatori raccolsero parecchie decine di testimonianze reali di persone che diceva sì, sono Anna Adamolo, cioè come dire, stando al gioco, insomma, diciamo, e raccontando tante piccole storie di, come dire, precariato, insomma, e di cose. Allora, il libro, vediamo se riesco a trovare i materiali del libro, sono convinto che ci fossero qua, perché il libro ci venne chiesto, praticamente venne scritto alla fine del 2008, insomma, in 448, insomma, nel gennaio nel 2009 uscì per la NDA Press, che è una piccola casa editrice di Rimini, vicino a Rimini. Allora, qui non c'è nessuna cartella con su scritto libro. Questo è San Precario, cos'è? Questo sai che non mi ricordo. Ah sì, poi vennero fatti una serie di copertine false di chi? Allora, questa è quella vera in realtà, però poi, eccolo qua, chi? San Precario e il ministro Onda, ma perché ci fu anche, poi dopo ci furono diversi giornali che ne parlavano, adesso a parte i quotidiani no, ma diversi giornali scandalistici anche, questo non chi, ma quello delle bambine, come si chiama, quello delle... che leggono, ecco qua, per esempio, San Precario e il ministro Top Girl. Allora, Top Girl, adesso non mi ricordo più come andò a finire, ma Top Girl, c'era qualche che si chiamava Top Girl. Sì. Top Girl contattò Anna Adamolo per scrivere una cosa su Anna Adamolo, alla fine poi fu una cosa complicata. Comunque, insomma, qua vedi, c'erano varie, ok. Questo era il chi. Perché queste sono cose fatte insieme, direttamente insieme con il gruppo di San Precario, perché sono sempre le stesse robe. speciale Anna Damolo key fake. Vediamo cos'è questo. Ah sì, questi sono i testi, ok. Box prima versione, box prima versione. Chissà come mai ce l'ho io. Ma... ah, chi lo sa. Speciale Anna Damolo è l'unione del secolo, sempre chiaro e ministro Onda. Tutti remavano contro la moneta Cofferati, ma adesso che sto con Anna, reddito gratuito per tutti. Cacciate così. Maestro unico, i genitori bocciano Germini, tagli incompatibili con le case famiglie. Vediamo, andiamo a vedere questa roba di Top Girl. Vediamo cosa trovo. Sì, comunque insomma, una cosa è sicura, che quelli che l'hanno fatto si sono divertiti, sì. Comunque è un casino. Allora, vediamo se qua mi dà sempre così o no, cazzo. Top Girl Natural Information, ok, aggiornamento, rimozione infezione, ah sì sì sì. Allora, questa me la ricordo meno bene, ma questa roba è andata che... sì, qualcuno ha fatto sia per Internet Explorer, cioè di falsi virus, attribuendoli a Top Girl, perché Top Girl voleva, perché loro erano incazzati su... fatto qua e quindi, ma insomma forse è meglio che andiamo a vedere l'immagine qual è, vabbè sì, vedi, attivato, c'erano dei componenti, una roba che si poteva mettere sul proprio browser, no, componenti, allora, faccio ok qua non si vede un cazzo perché ovviamente è una pitch. Andiamo a vedere il comunicato stampa, va, così almeno le robe scritte sono più... Qui siamo già nell'aprile del 2009, nel corso di tutto il 2009 ci sono state delle code di questa, insomma, chiama Damolo, ormai il momento alto è stato, diciamo, novembre 2008, gennaio 2009, però... Il 3 aprile scorso Anna Damolo e tutti i suoi amici hanno avviato una campagna per contrastare il nuovo virus dell'informazione che si sta diffondendo negli ultimi tempi. Esso è stato denominato TG Neutral Information 1.0, d'ora in poi NI. Tutte le informazioni per scoprirlo e neutralizzarlo si possono trovare sul sito, ok, se lo fate ritorno al sito, viralnetwork.info. NI ha origini antiche, risale infatti alla nascita dei mass media, non se ne può certo attribuire l'intera responsabilità al giornale Top Girl, che ha solo contribuito a diffonderlo chiedendo un'intervista al ministro della pubblica istruzione e ricerca Anna Damolo dopo aver pubblicato nel mese precedente un'inchiesta sui giovani neonazisti di Forza Nuova, questo che, per cui quelli di Anna Damolo si incazzarono. NI è in effetti molto subdolo e l'infettato non si rende neppure conto di essere malato, anzi è convinto di esercitare un ruolo sociale positivo diffondendo una mitica sostanza chiamata informazione neutra e corretta. NI infatti installa nel soggetto che aggredisce la pericolosissima convinzione che la cosa chiamata informazione abbia un'esistenza autonoma, svincolata da chi la produce e da chi ne fruisce, e che esistano modalità ottimali di produrre e di consumare questa medica sostanza in modo che essa non danneggi né l'emittente né il destinatario né gli eventuali soggetti dell'informazione stessa. Il caso di portatori sani è raro, ma non del tutto infrequente. Ora, è possibile che anche la direzione e la redazione di Top Girl siano portatori sani del virus NI e che abbiano solo pensato di offrire alle loro lettrici un quadro imparziale di alcune tendenze giovanili esistenti nella nostra società, destra e sinistra, xenofobi e tolleranti, straight e hippie. È una sciocchezza, ma può darsi che sia stata concepita e coltivata in buona fede, però anche se così fosse, l'effetto sul pubblico sarebbe ugualmente catastrofico. Anna Damolo ha ritenuto di non dover essere complice di questa operazione e si è quindi sottratta all'intervista. Loro chiedono l'intervista, si guardò il giornale, si vide che il contesto in cui l'avrebbero messa era un vago contesto appunto di tipo apparentemente neutrale su varie tendenze giovanili, però nello stesso contesto, nel numero prima, era stata pubblicata un'intervista a questi qua, a alcuni giovanotti di Forza Nuova. E allora quelli di Anadamo lo dissero, no, non ci vogliamo, non vogliamo venderci. E si è quindi sottratta all'intervista, perché se l'avesse rilasciata molti lettori avrebbero avuto l'impressione che un gruppetto che semina violenza, razzismo, intolleranza e sessismo tra i giovani, per fortuna in misura limitata come Porta Nuova, fosse sullo stesso piano degli studenti precari, insegnanti e ricercatori che si riconoscono nelle azioni e nelle iniziative del ministro Onda, anzi che sono promotori in prima persona di quelle azioni e di quelle iniziative, perché ognuno di loro è Anna Adamo. La ricerca di una falsa oggettività che non sa distinguere tra i diversi effetti sociali delle azioni e delle intenzioni va spesso sotto il nome di giornalismo di costume. Un testo fatto da qui per persone proprio che in punta di forchetta, complesso, ma insomma. Ma l'incapacità di comprendere gli effetti sociali della comunicazione, l'illusione dell'oggettività è proprio uno dei sintomi più chiari dell'azione del virus NI. Anna Adamo, sottraendosi dunque ad un equivoco episodio di giornalismo di costume, intende proprio contribuire ad arginare il diffondersi di NI. E quindi questo è stato il comunicato con il quale Anna Adamo si rifiutò di rispondere, di fare all'intervista di Top Girl. Ok, sì, era tutta la storia. Vabbè, poi c'è anche un altro documento che si chiama Evoluzione dell'infezione. Sì, no, questo niente, è semplicemente una prima versione, sì, è una prima versione del documento che abbiamo visto prima, quindi va bene, non ci dice nulla di nuovo. Vediamo cos'altro c'è. Ma insomma, direi che le cose, insomma, principali te l'ho detto, strisce pedonali, sì, questi erano tutte le cose, tutte le robe chiaramente della parte grafica del movimento, insomma. Comunque, certo, non ha avuto una grande diffusione. Allora, del libro te l'ho detto, il libro poi è stato presentato praticamente in 3 o 4 occasioni con una specie di spettacolino teatrale, diciamo, tratto dal libro, cioè alcune persone sceneggiavano o addirittura ampliavano in certi casi dei pezzi, diciamo, del libro, siccome il libro erano tutte storie. Allora, il libro è stato costruito, questo è, come dire, interessante, perché è vero che poi l'hanno scritto di fatto 3 o 4 persone, hanno finito di realizzarlo, però i materiali sono arrivati veramente da più di 25 persone, come dice il documentario, più di 25 precari, i quali ognuno ha raccontato una storia. Poi c'erano 2 o 3 storie precari, poi le storie sono state editate, cioè messe insieme, e molte per esempio fuse, no? Perché ce n'era una per ogni virgolette categoria, no? Cioè una storia di studente, una storia di bambino, una storia di genitore, una storia di... No, dunque, studenti, c'era studente universitario, studente medio, bambino, genitore, professore, precario, artista. Allora, per esempio, la storia dell'insegnante deriva dalla fusione che ho fatto io di 2 testi diversi, uno mio e uno di un altro insegnante, in cui ho utilizzato una parte dei testi, poi la stesura finale l'ho fatta io materialmente, però diciamo il materiale era... Allora, e nella parte in cui io mettevo, mettevo in scena, sceneggiavo un piccolo episodio, che è un piccolo episodio della mia vita, più o meno vero, che ho scritto nel libro, ed è un episodio di quando ho fatto per la prima volta l'insegnante di matematica in un paesino sperduto del Friuli, e quando ero ancora studente, avevo 21 anni, e però insomma, avevo bisogno di soldi, quindi erano gli anni, primi anni 60, quindi metà degli anni 60, quindi era appena stata varata la scuola media unica, c'era una grande necessità di insegnanti, i laureati erano pochi, nelle grandi città c'erano, cioè, tutti laureati, anche nelle scuole medie, ma tu devi pensare che all'improvviso diciamo, l'utenza della scuola media diventate 10 volte tanto, prima non c'era la scuola media unica, c'era una scuola media, diciamo, tradizionale, che era perché non c'era neanche l'obbligo scolastico, sì, no? Alla media. c'era, o meglio, c'era in maniera sana, però tu potevi farlo sia facendo la scuola media, dopo le scuole elementari, sia facendo una specie di ghetto rendo che si chiamava l'avviamento professionale, in cui in 3 anni ti davano una specie di vaga infarinatura per avviarti a un mestiere, insomma, manuale, no? Nel 63, 62, 63, non mi ricordo, una delle prime riforme fatte dai governi di centro-sinistra fu l'abolizione dell'avviamento professionale, alcuni cambiamenti nel programma tradizionale delle scuole medie, come l'avevo fatta io ho fatto ancora le scuole medie vecchie, e l'avvio di questa media unica che diventava a questo punto, c'è stato l'aumento dell'obbligo per tutti, ma avendo abolito il professionale si poteva fare solo nella scuola media. Quindi era. Allora questo creò in alcune materie, soprattutto l'italiano, ma anche l'italiano, insomma, cioè, in specie in alcune zone del paese, nelle scuole di provincia, c'era una carenza di insegnanti terribile, insomma. Ricordo nella scuola in cui andai io quell'anno, era l'anno scolastico 1965-66, io facevo il terzo anno di matematica e praticamente saltai l'anno, quell'anno lì praticamente non studiai, e stetti tutto l'anno in questo paesino vicino a Pordenone, c'era una vita un po' infernale, insomma, anche per altri motivi miei personali, insomma. Avevo 21 anni appena compiuti. Allora, per dire, dei 3 insegnanti di matematica, eravamo in 3, era una scuola media di paese, quindi con i bambini figli di contadini che, diciamo, di giorno venivano a scuola e il pomeriggio venivano fatti lavorare dalle loro famiglie, che non potevano neanche fare i compiti, era una roba, una situazione veramente. Insomma, dei 3 insegnanti di matematica c'era una signora, di ruolo, che laureata in matematica. Poi c'ero io, che ero uno studente di matematica del terzo anno, non avevo ancora titolo, però ho avuto una supplenza annuale per tutto l'anno, pagato tutto l'anno, eccetera. E il terzo era uno studente di architettura, addirittura di architettura di Venezia, quindi figurati neanche, quindi su 3 persone, una. Mi ricordo tra quelli che facevano italiano c'era un avvocato, quindi laureato in legge, che quindi anche nelle materie tecniche, non ne parliamo, insomma, quelle tecniche scientifiche, eccetera. Vabbè, io mi sono trovato a fare queste cose, ma a un certo punto, un giorno, insomma, un anno. Sai che sbaglio, non è quell'anno lì, cazzo, l'anno dopo, è l'anno, parecchi anni dopo, madonna, ho fatto una confusione, ti ho portato un pezzo della vita, che non potevo, no, perché, allora, no, quando ho cominciato ad insegnare davvero, dopo che ero laureato, certo, quindi parliamo del 72, anno scolastico, 72-73, io ho insegnato 3 anni nelle scuole medie, in realtà 2 anni soli, in provincia di Torino, perché in quel periodo stavo a Torino, ma in un postaccio sotto il Monte Rosa che ci mettevo 1 ora e mezzo per arrivare, una cosa che si chiamava Valperga Canavese. Allora, insegnando lì a Valperga, lì, ambiente di paese, stesse robe più o meno, però contadini, ecco perché mi sono confuso. Perché era lì. E so, a un certo punto mi capita la figlia del farmacista, mi pare. Del paese, una ragazza tranquillina, eccetera, che era bravina, certo, studiava, eccetera, eccetera, e poi una serie di altri disgraziati, invece, studenti mascalzoni, che però avevano dei problemi familiari, che effettivamente i loro genitori, ancora nel 72-73, quindi la scuola media unica ormai non era più una grande novità, c'era ormai da 10 anni quasi, e c'era ancora questa idea che loro non li facevano lavorare, bla bla, eccetera, eccetera. Allora, un giorno facciamo un compito in classe, insomma, di matematica, mi ricordo bene, e io, questa ragazza, non che, insomma, le davo, mi sembra 6 o 7, l'altro 7, eccetera, ma i genitori erano un po' incazzati con me perché pensavano che io non la valorizzassi abbastanza, ma era una bambina brava, non è che fosse una bambina. Però a volte davo dei voti di incoraggiamento un po' più alti a degli altri, e lei si dovesse lamentare diverse volte con i suoi genitori. Quindi a me mi dà solo 7, lei voleva 8, no? Per dire 8, 9, non so cosa voleva. e poi vedeva che a volte io davo 6 o 5 e mezzo, eccetera, a alcuni di questi invece ragazzi che non avevano, che erano messi in difficoltà, che avevano molte difficoltà, e questa qui era a casa, i suoi genitori, il farmacista, colti, c'erano i libri, le cose, grazie al cazzo che c'è, cioè, adesso non è che, non è che voglio, non è che devi essere punita per questo, però se aiuto qualcuno, aiuto più quelli che stanno in condizioni svantaggiate, che si sbattono, che una mezza volta che fanno un compito meno tragico del solito, invece di dargli 3, gli posso dare un 5, un 5 e mezzo, a volte 6, eccetera, eccetera. Insomma, io sono stato chiamato dal preside perché, allora io ho un po' trasformato questa cosa, mi sono autotrasformato in un insegnante di italiano, ho fatto un tema invece che una cosa, e ho fatto un tema tipo con un tipo che ho dato 7 a tutte e due queste persone. Quindi nel libro c'è questo episodio che è la trasformazione dell'episodio, però si basa più o meno della mia vita reale. E quando c'era lo spettacolo, io allora a quel punto raccontavo questa cosa, ma come un monologo, però non io, cioè io così facevo il preside. Facevo il preside che convocava un caronia o un insegnante precario invisibile, no? E gli facevo la ramanzina, quindi improvvisavo questa cosa, in genere era il prologo dello spettacolo. Invece poi c'erano altri che leggevano dei pezzi, dei testi, o altri che per esempio recitavano. I ragazzi del cantiere l'abbiamo fatto 3-4 volte in tutto, insomma, una volta, io 2 volte credo l'ho fatto, una volta a Milano e una volta a Roma al North Festival. Comunque il libro avrà, non so, avrà venduto 1000 copie adesso. Comunque è stato comunque distribuito, diffuso, c'era, ma accidenti che perché io speravo ci fosse, vabbè, questo vedo, mi impegno, se non trovo il libro almeno, perché non c'è neanche la copertina, era convinto che ci fosse la copertina, immagini, eccolo qua, che ti ho detto, Iniziatobook, cazzo, dai, almeno farti vedere la copertina, eccolo qua. E sono state prese un sacco di foto, lasciate le labbra, sono Anna Damolo, questo è il coso, voci e racconti dall'onda anomala. E qua dietro, in una forma che a me graficamente piace tantissimo, perché una roba che io la vedevo negli anni 60, quando ero bimbo, quando ero piccolo, quando avevo e compravo Linus, c'era un fumetto che si chiamava Pogo, dove c'erano dei lavori di questo tipo, cioè l'utilizzo di tanti font diversi messi insieme un po' così, questo è un pezzo del testo, cioè è il testo che ti ho letto prima, insomma. Qua ci sono tutti i testi, perché tutti i testi semi lavorati. Non ti ho detto che devi andare via. È finito qua. Tutti i testi semi lavorati. Ma pensavo di avere anche altre cose delle copertine. Fuori sete, cosa vuol dire? Ah, guardiamole, qui c'è un tot di foto. Queste qua sono le foto delle lezioni in piazza del 2009 o 2010, tra cui c'è la più. C'è una anche mia che ha girato. Ti fai un'idea che sono belle foto, sì. No, queste sono foto, no, del 2008, che cazzo dico? No, o del 2009, adesso non so se piace del 2009. Insomma, erano azioni grosse, in quell'anno lì sono state... Sì, c'era andata. Sì, tu facevi, tu già studiavi qui? Sì, c'era. Già, ma come facevi il primo anno? Sì, primo o secondo. Primo o secondo, sì. Era quell'anno. No, 2008 secondo, sì. 2008 addirittura secondo. Vabbè, niente, queste sono delle foto in più. Vabbè, adesso non so, qui c'ho detto dentro un casino di materiali. Fuori sede files, cosa vuol dire? Se non c'è un... Ah, eccoli qua, sono qua. Quindi sono tutti vari contributi sono venuti fuori sede HTML. Queste sono qua ci sono dei pezzi dei questo è l'inizio di Arianna, sì. Arianna ha fatto un pezzo anche lei, insomma tutti hanno fatto, tutti quelli che c'erano, niente, questo è il pezzo di Arianna. Ma pensavo fosse una di quelle cose SA, cos'è? Ah, qui ci sono finite ancora delle robe di Anna Damolo. Ah, sono Anna Damolo, sì, sono Anna Damolo per. Varie prove di, sono tutte uguali. Questa sì, questa è sono Damolo Web, vuol dire. Questo mi sa che è il testo completo. Questo è il PDF del testo. Quindi il libro era questo. Con un titolo dato per ognuna di queste cose, che erano e sono state fatte in questo modo che insomma, ti ho detto, quindi con dei testi veri, ovviamente riscritti, perché non puoi tenerli così come. Il mondo sarebbe se i precari potessero comunicare. Sì. Brunetta non ha mai avuto il morbillo. E poi c'erano, in appendice c'erano alcune, insomma, diciamo, diverse delle email reali, quelle mandate a ministero.istruzione.net. Qui si vede come sono solo le due pagine, capito? Adesso viene fuori così. No, non so perché c'è questa roba in mezzo, invece in realtà è una pagina sola. E questa è una specie di collage fatto per di vari pezzi delle cose arrivate lì, ma sono diciamo lettere insomma reali, cose reali, sono che sono state più o meno montate. E poi ci sono le varie, qui c'è la foto mia per ovvie ragioni, perché questo io sono uno dei due che vai, qui c'è questo episodio di cui appunto ti parlo, in cui appunto il preside mi convoca, in realtà non è mai convocato, però mi aveva convocato anche per altre cose, insomma, e mi fa un culo tanto perché non ho dato 9, non ho dato 10 alla bambina, alla figlia, credo di aver cambiato anche sesso, adesso non so, non me lo scordo, però no, non io, sesso alla bambina, forse sono due figli, no, per fare tutta la. Ma sì, perché. Insomma, quindi sono testi che insieme raccontano delle storie, ma questo è quello dello studente medio. E cominciano tutti, sono Anna Damolo, perché c'era questa era l'idea lì. Vabbè, insomma, credo di averti dato un'idea, un po' già probabilmente sapevi, ma insomma anche dei retroscena. Direi che Fosco lo facciamo la prossima volta, perché non c'è più tempo. Il prossimo venerdì. Io non sono il mio lavoro, questa è una roba sulle tematiche femministe, sì. Cioè, nel senso, è una studentessa che, no, è una lavoratrice precaria, però in cerca di buon idolo. Ah, qui c'erano anche i migranti, quindi questi sono i bambini migranti, tipo. E era stato scelto per ogni. Quindi fatto anche con una qualche ricerca anche linguistica. Ma se riesco, se trovo almeno. Dovrei averne una copia. Questo è lo studente universitario, credo. O lo studentessa universitaria, e questo è l'ultimo. Allora, questo è un altro. Allora, i precari erano due, forse, non lo so. Perché ce ne vai. E l'ultimo è Brunetta ha mai avuto il morbillo. Ah, questo è un tecnico dell'università. Questo è stato appena cambiato, ma è un altro solo. Questo è addirittura un tecnico. Non pensavamo ci mandassero delle cose così. Un tecnico di Milano, dove italiano, credo, di biologia, della facoltà di scienze. Ah sì, che loro li hanno ammazzati. Sì, li hanno fatti anche loro i culi. E questo è l'ultimo, questo è l'archivista. Questo ti rivelerò che l'ha scritto Arianna, poi l'abbiamo messo un po' a posto, ma insomma, che racconta una sua giornata immaginaria della cosa. Poi ci sono, questi sono alcune delle email inviate, ma c'erano anche delle registrazioni, ce n'era un sacco. Siti di Anna, c'erano tutti i siti di Anna e quelli in cui si era parlato di Anna Damolo, perché poi per fare sta roba qua, diciamo, i promotori, nella fase di avvio, presero contatto direttamente con San Precario, eccetera, fecero lunghe riunioni anche con quelli di San Precario e con quelli di Serpicanaro. Ah, ti ho parlato anche di Serpicanaro, quindi siamo Serpicanaro e Foscolo di Ticina, sì, che sono due cose diversissime, ma... Vedi qua dice, ringraziamo per la vita di Anna e la redazione del libro, la mailing list a Hacino, Sociale Cantiere, Collettivo Autarto, Accademia di Brera, Florian Kramer perché ci ha dato le cose, Pietro perché era il direttore del Pietro Latini Institute in cui lavorava. Gadda, Io Cose, Giarro, Mindeliana Invisibile, Leslie Robbins, Lobo, Una Lamona Milanese, Parco di Ello. In effetti gli unici due nomi di persone che compaiono ovviamente sono Gadda e Lobo. Perché sono i due che insomma, si sono battuti di più. Per i testi c'è Workers, Collettivo Non Passerà. I testi sono arrivati obiettivamente in gran parte dai collettivi per la benedizione San Precario, ovviamente, perché dovevi mettere così. Quindi c'è un Workers, Collettivo Non Passerà, Mediazione Culturale Milano, Coordinamento Collettivo di Soluzione Discriminale Provincia. I diversamente strutturati, ma è roba che è arrivata da Pisa, tecnici amministrativi dell'Università Statale di Milano, questa è Università 2.0 Pisa, alcune robe arrivarono da Pisa, quindi, e fu una bella esperienza anche di fare lì, 128 pagine, non è che fosse, però insomma questa è la redazione del libro, insomma. Si capisce bene che il Parco di Yellowstone ha fatto le cose grafiche, ma non ha fatto la redazione, quindi la redazione... Giarmi non mi trovo perché si è finito. No, Florian perché praticamente, se no Loretta, praticamente Loretta ha passato tutto il giorno a fare questo qua. Cioè come anche poi all'esame finale del corso ha presentato questo, perché non aveva fatto altro che questo. Quindi era... E va bene, insomma, ti ho raccontato anche Anna Adamo. E quindi introversa puoi passare? Sì, ti passo tutto. Ti do tutte, ti do anche Fosco, già che ci sono, che ce l'ho già. Aspetta che chiudo, perché sennò il mio, se non chiudo, non ci metto... No, cioè, lo so che è... Chiudi il gruppo. Va bene, ci sei. C'hai spazio, sì. Ah no, però devo prima trovarti. Ecco, sei Kingston. Sei Kingston Town. Non ti ho detto di fare nulla, perché fai questa roba? Bambino, cosa vuoi riprodurre? Ma che cazzo te l'ha chiesto? Ma non devi fare un cazzo? Perché fa questa roba qua? Ah sì, perché era apparsa la... Io ho cliccato su una roba su cui non dovevo cliccare? Va bene, ma adesso si è chiuso. Allora, io voglio solo metterlo qua. Oh, così facciamo. Andiamolo. Non ci mette, 5 minuti, un minuto, 3 minuti. Sì, deve copiarsi come fai. Vedi che sono disordinati, cioè più o meno c'è un ordine, però è un casino, l'hai già visto oggi come... Perché è come li ho accumulati lì in quel periodo, insomma. E quindi adesso c'è quello che rimane è portare in giro, presentare in giro il progetto. Sì, adesso hanno fatto sta cosa perché gliel'ha chiesto Tatiana. a trasvegliare. Tatiana curava una sezione speciale chiamata, non mi ricordo come, in cui faceva diversi nuovi progetti. Allora loro hanno, allora ha ovviamente contattato, ma cioè, ormai il progetto Anadamolo è insomma chiuso, ma e si era chiuso anche quando ancora c'era Otart, anche Otart per gli anni successivi, diciamo, fra il 2009, alla fine della seconda metà del 2009 e il 2010 ha fatto altro, cioè, sono organizzare i corsi di autoformazione, eccetera. Quindi Anadamolo è diventato più che altro un oggetto di studio. Abbiamo fatto questo articolo, Lovetta, io e Tatiana, per Digimag, che se vai su Digimag lo trovi, insomma, cerchi su. Sai Digimag, non sei messo da Digimag. No. È www.digimag.qualcosa, che non so. Aspetta, cerca anche Digicult, perché comunque non lo so, perché il portale è Digicult e poi c'è questa. Questa rivista che è Digimag la fanno un paio di persone, insomma, diciamo, l'ideatore è un tale Marco Mancuso, che è uno che si interessa prevalentemente di musica, comunque fa, però lui si interessa più di musica che di altro, però ha fatto questo portale e questa rivista in genere sulle culture digitali, insomma. E la rivista esce online, solo online, però ogni mese è una prima rivista con i suoi articoli, le sue cose, eccetera. E sia Loretta che io siamo tra i collaboratori, in realtà io non è un po' che non scrivo perché c'è più pochissimo tempo, quindi comunque cioè, sono varie cose. E adesso mi sembra nel 2010 l'abbiamo fatto, non mi ricordo, mi pare nel 2010. Comunque se cerchi su Digimag, cerchi Loretta Borrelli o Antonio Caronia, trovi tutte le nostre cose, tra cui questo che è l'articolo. Cioè, sono solo che non ce l'ho purtroppo qua dietro. E quindi niente, insomma, sono analisi sulla cosa, eccetera. Quindi quest'anno loro sono andati praticamente è andato l'ex Autart, insomma, cioè qua la gran parte degli ex di Autart, non quelli del cantiere, perché non c'è stata la rottura. Vabbè, insomma, perché hanno modi di pensare diversi, cose diverse, ha funzionato per breve tempo in quel periodo lì, perché era. Però andando su, Fabio mi ha detto, rispettiamo la cosa, me l'ha raccontato più Fabio che non l'ho letta per una serie di motivi, e si sono inventati un altro nome collettivo comunque, perché hanno trovato delle dichiarazioni sul patrimonio artistico, eccetera, che insomma gli sono piaciute, di questo Salvatore Settis, che è un archeologo, non so dell'arte, che è stato, non so se direttore generale al Ministero, non della pubblica istruzione, ma dei beni culturali, roba così, e poi si è andato via, o ha presieduto una commissione, sono un cazzo. Allora gli hanno semplicemente, non so bene che tipo di operazione abbiano fatto, adesso magari quando riparlo con Fabio me la faccio raccontare, è di 2-3 giorni fa, insomma sono stati su fino al 4-5 di febbraio, o al 4-5 febbraio. Sì. E allora si sono inventati questo nome che è Salvatrice Settis, lui si chiama Salvatore Settis, no, Salvatrice Settis. Quindi nel programma di Transmediale c'erano Salvatrice Settis e Anadamolo, che ovviamente erano loro, insomma. Anadamolo ce l'hai, fosco. E così, insomma, niente. Sì, non è più un progetto attivo, insomma, ci sono rimaste le tracce sulla rete, perché sulla rete non si perde quasi nulla, quindi. E adesso se riesci a casa, io qui non è inutile perché si perdeva un sacco di conferenze. Comunque cercati ministeroistruzione.net e il blog sono le due cose fondamentali, ma gli ultimi materiali risaliranno se no al 2009, insomma, dopodiché non c'è stato aggiunto più nulla. Sono solo lì come. No, perché poi appunto perché l'ultimo, prima di morire, l'ultimo progetto di Autart è stato Fosco, però Fosco ha fatto due sole azioni molto brevi, ma è una bella pensata pure quella, poi ne parliamo la volta prossima. Erano mi ricordo al MIART. Allora sai già tutto. Due ne ha fatte, una al MIART e una al Salone del Mobile l'anno dopo. che ci vuole un casino bisogna mettersi lì, ci vuole un casino di tempo per prepararselo. Quando poi vengono bene, poi sono cose spesso effimere che capito, finiscono in un momento. Vabbè, però dopo ne nascono molte altre, no? Ah sì, certo, se ne fa, cioè se, finché ci sono le condizioni, cioè sino a che rimane in vita la rete di relazioni che ha costruito, questo è il problema, cioè le relazioni tra le persone. Quando le relazioni non ci sono più, o sono allora lì che c'è il problema, insomma, o quando le relazioni si guastano, o quando... Ah, madonna, abbiamo registrato un casino di cose in più. Ah, lo taglio, va bene. Grazie.